puoi stare male, più mi innamoro di te, di te. Più ascolto la tua voce, più mi innamoro di te, di te. Guardami negli occhi sotto questa pioggia che ci accompagnerà anche stanotte. Stringimi più forte, credimi se ti dico che non penso a nessun'altra quando sto con te. Giuro amore, ti porterò dove non sei stata mai. Provo a non cercarti, più mi innamoro di te, di te. Più mi lasci da parte, più mi innamoro di te, di te. Lasciati portare dove non sei stata mai. Ti dedicherò ogni istante. Non ho mai capito cos'è quel vuoto dentro di me che mi accompagna quando sto con te. Giuro amore, ti porterò dove non sei stata mai.